giornale radio del Friuli Venezia Giulia. A Udine in arrivo migliaia di tifosi e nel pomeriggio la squadra del Napoli atterrerà a Ronchi. Domani sera nel capoluogo friulano i partenopei puntano ad ottenere lo scudetto. Alle 10 nuova riunione in prefettura sulla sicurezza. A Trieste si va verso il ridimensionamento dei consultori familiari che dovrebbero passare da 4 a 2. La denuncia viene dai sindacati. I rappresentanti dei lavoratori chiedono che Asugi faccia marcia indietro. Nel primo trimestre dell'anno le assunzioni in regione sono cresciute di oltre il 5% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Secondo le previsioni, la domanda di lavoro resterà elevata anche a fronte di un calo del PIL. Sempre più lunghi i tempi per ottenere il passaporto a Pordenone. In questura suggeriscono di prendere comunque appuntamento alla prima data disponibile. Per esigenze particolari i tempi saranno accorciati. Formazione ma anche sostegno ai genitori di adolescenti che fanno uso di stupefacenti e alcol. L'obiettivo di una serie di incontri promossi dall'azienda sanitaria pordenonese. La nostra intervista alla coordinatrice del progetto. A un anno circa dalla caduta di Mariupol, il festival Vicino Lontano racconta con una mostra fotografica allestita nello spazio Make di Udine le giornate drammatiche dell'assedio della città ucraina. Dal WWF e Legambiente, le associazioni che si sono espresse contro il Giro d'Italia sul Monte Lussari, una lettera alla regione per chiedere che la corsa sia almeno plastic free, senza gadget e senza pubblicità. Le 12.32, ancora buongiorno da Alessandra Zigaina e Nada Cioc. È previsto dunque nel pomeriggio l'arrivo all'aeroporto di Ronchi della squadra del Napoli che domani sera, sempre che la Lazio non vinca oggi contro il Sassuolo, potrebbe conquistare in Friuli lo scudetto. In città stanno arrivando migliaia di tifosi mentre sono già scattati i dispositivi di sicurezza. Uno scudetto che potrebbe arrivare in albergo questa sera a Udine, se la Lazio non dovesse vincere contro il Sassuolo, oppure sul campo domani contro i bianconeri. Sarà blindatissimo in serata l'hotel in cui alloggia il Napoli, nella zona nord della città, sia dalle forze dell'ordine sia dai tifosi. Si stanno già organizzando per andare a prendere la squadra all'aeroporto di Ronchi dei Legionari e poi seguire il match a pochi metri dai loro giocatori. Nella sede del Napoli Club Udine Partenopea si parla di 15.000 tifosi azzurri in arrivo in città, il triplo di una Udinese Napoli ordinaria. Circa 10.000 con il biglietto per lo stadio Friuli, che sarà tutto esaurito, altri 5.000 nel capoluogo friulano solo per far festa. I residenti in Campania, i 1.400 ammessi nel settore ospiti, arriveranno e partiranno domani in bus, monitorati dalla Digos. Impossibile sapere quanti napoletani residenti invece nel Triveneto si metteranno in macchina all'ultimo minuto per raggiungere il Friuli. Pietrangelo Chierchia, presidente del Napoli Club di Udine. Ho ricevuto tantissime telefonate in questa ultima settimana, ma centinaia e centinaia, e questo mi fa capire che saranno tanti, veramente tanti, che vengono anche senza biglietto. Il prefetto di Udine ha già chiesto rinforzi. Questa mattina in questura un'altra riunione per stabilire il protocollo di sicurezza. Verrà implementato nell'arco delle 24 ore. La sola polizia locale raddoppierà il personale impiegato e si servirà di un drone. Nonostante i toni minacciosi di una parte degli ultra e la rivalità tra le due tifoserie, l'associazione Udinese Club spera di rovinare sì la festa ai napoletani, ma solo sul campo e senza alcun tipo di tensione extracalcistica. Maurizio Manente, vicepresidente dell'associazione Udinese Club. Una partita tranquilla, vissuta, tifata, ognuno per la propria squadra, ma senza scendere in episodi veramente che potrebbero essere rovinare, tra l'altro, una immagine del Friuli e di Udine proprio a ridosso dell'evento degli Alpini, che sarebbe, diciamo, una cosa che insomma contrasterebbe parecchio. Udine, Lillo Montalto Monella, TGR Friuli Venezia Giulia. Nella riorganizzazione sanitaria a Trieste è prevista la riduzione dei numeri dei consultori familiari sul territorio, strutture importantissime per le donne e per le famiglie, denunciano i sindacati, auspicando che la Asugi ritorni sui propri passi. Per le mamme che hanno appena partorito è un porto calmo e sicuro, un luogo indispensabile post-gravidanza dove trovare una parola di conforto data da professionisti esperti in un momento delicato come può essere una prima maternità. Per un adolescente invece è il posto dove trovare informazioni quando ci si approccia alla sessualità. Parliamo dei consultori familiari, un'istituzione a Trieste, 4 quelli attivi finora distribuiti su tutto il territorio ma che secondo il recente atto aziendale stanno subendo un ridimensionamento almeno nei luoghi. Da 4 strutture diventeranno 2. A restare sono quelli di Valmaura e Roiano. Una segnalazione da parte di un genitore è arrivata qualche giorno fa in redazione. Siamo preoccupati, ha scritto. Abbiamo un bimbo piccolo e questo servizio è prezioso perché non lontano da casa. Il 1° maggio, durante la manifestazione della festa del lavoro, un volantino della CGIL che conferma le preoccupazioni parla di smantellamento dei consultori. Siamo in attesa di una replica richiesta ad Asugi. Siamo con Maria Vanto, ex responsabile del consultorio del distretto 2 in via San Marco, zona San Giacomo, in pensione da un paio d'anni. Si dice preoccupata anche lei, Maria? Sì, un po' preoccupata lo sono, perché mi sembra molto particolare che sia stata fatta questa scelta quando le normative nazionali, in particolare il decreto ministeriale 77 del 2022, quello sul potenziamento dell'assistenza territoriale, ha definito come standard per il consultorio una sede, un consultorio ogni 20.000 abitanti. Quindi andare ad accorpare delle sedi mi sembra un po' in controtendenza a quelle che sono le indicazioni. Io ho visto l'atto aziendale, perché anche se sono in pensione, chiaramente ho passato 40 anni in sanità, di cui la metà in consultorio familiare, quindi continuo a tenermi aggiornata perché penso che ogni cittadino lo debba fare. E già vedendo l'atto aziendale devo dire che il mio timore era proprio quello che sta accadendo, e quindi accorpare. Io spero che la dirigenza ci ripensi, perché disarticolare così il sistema territoriale, no? Accorpando sedi, e capisco che può essere più comodo per tanti motivi, ma non è, come dire, efficace per la popolazione. Trieste, Anna Vitaliani, TGR Friuli Venezia Giulia. A Trieste si è creata una voragine sul manto stradale in via Ponziana, nel quartiere di San Giacomo. Il traffico di auto e autobus rimarrà deviato probabilmente fino a questa sera, mentre oltre 50 famiglie sono rimaste senza acqua perché il cedimento si deve alla rottura di una condotta dell'acqua. Un'auto è rimasta coinvolta nel cedimento stradale ed è stata portata via dal carro attrezzi, riportando danni alle ruote anteriori. Nessuna conseguenza però per il guidatore. Il foro è proprio su un precedente lavoro di riparazione compiuto un anno fa. Per permettere l'intervento di riparazione all'altezza del Civico 8, la strada è stata chiusa nel tratto compreso tra via Gramsci e via Mansanta. Senza acqua, come detto, i residenti della zona a partire dalle 10, in particolare gli utenti di via dell'Istria, via Ponziana, via Orlandini, via Gramsci e le strade limitrofe. Le operazioni dovrebbero essere completate entro oggi. Nello scusarsi per gli eventuali disagi, a Cegas APS AMGA raccomanda in una nota che al ripristino dell'erogazione idrica venga fatta scorrere l'acqua per alcuni minuti fino a quando questa tornerà limpida. Partita una vasta operazione di ricerca in mare davanti alle coste istriane di due pescatori umaghesi che sono usciti ieri all'alba con la loro barca di circa 6 metri. Le condizioni del mare mosso e le forti raffiche erano molto impegnative per un'imbarcazione di quelle dimensioni. Alcuni testimoni che li avevano avvistati ieri attorno alle 10:30 del mattino hanno riferito che l'imbarcazione era molto sbilanciata, probabilmente a causa del peso dell'attrezzatura mal distribuito a bordo. L'allarme è stato dato ieri nel tardo pomeriggio dai familiari. Le ricerche interrotte ieri sera sono riprese questa mattina all'alba anche con l'ausilio di velivoli. Delle ricerche in mare sono state avvisate anche le autorità italiane. Convalidato l'arresto di due ladri che giovedì notte in via Alfieri a Udine hanno rubato in un appartamento. Una squadra delle volanti, allertata dai vicini, era giunta sul posto e aveva notato due uomini che uscivano di corsa da un edificio al quale avevano forzato la porta d'ingresso. I due sono stati fermati e perquisiti. Gli agenti hanno trovato nelle tasche dei due un telefono di cui ignoravano il codice di accesso e un paio di orecchini. In questura gli agenti hanno appurato che il telefono e gli orecchini appartengono ad una donna residente in via Alfieri. È emerso anche che uno dei due fermati aveva minacciato il compagno della donna derubata dicendogli che gli avrebbe sfasciato la casa se non gli avesse dato la somma di 50 euro. A Pordenone le liste d'attesa sempre più lunghe per avere il passaporto, un problema che dura già da tempo e che sembra non avere soluzione. Chi entrava ieri sera nel sito per la prenotazione di un appuntamento per il rilascio del passaporto alla sezione questura di Pordenone non trovava un solo posto disponibile. Agenda chiusa, disponibilità esaurite. Entriamo di nuovo stamattina e qualche sporadica disponibilità è comparsa. un paio a luglio, qualcuna di più ad agosto. Appuntamenti che vanno a ruba ancor più ora in vista della stagione turistica e tempi di rilascio che si dilatano. Si può attendere ben oltre un mese per richieste non urgenti. Una difficoltà a livello nazionale a cui a Pordenone si è cercato di dare risposta con aperture straordinarie degli uffici nei primi 3 mesi dell'anno e dal 6 aprile con un'estensione permanente degli orari. Lo sportello è aperto tutte le mattine, dal lunedì al venerdì e il lunedì e il mercoledì pomeriggio. Ma chi ha in programma un viaggio quest'estate come deve comportarsi? Dal sito in questi giorni si legge che a causa del numero elevato di richieste non verranno più prese in considerazione le richieste d'urgenza via email. Il consiglio allora è di prenotare il primo appuntamento disponibile, anche fosse a settembre, e di presentarsi prima all'ufficio preposto supportati da adeguata documentazione come la prenotazione di un viaggio o un biglietto aereo, e la richiesta, anche appunto di tipo turistico, assicurano, sarà evasa in tempi utili. Pordenone, Natascia Gargano, TGR Friuli Venezia Giulia. Secondo i dati diffusi oggi dall'Osservatorio regionale del lavoro, nel primo trimestre del 2023 le assunzioni sono state il 5,2% in più rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Il livello è alto anche rispetto al primo trimestre del 2021, nonché al periodo pre-pandemico. In calo di circa un centinaio le assunzioni a tempo indeterminato, pari a un meno 1,8% rispetto al terzo trimestre 2021. Il livello però rimane comunque elevato, considerando che questo valore supera quelli del 2021. La domanda di lavoro continua ad essere alta nonostante le note criticità economiche legate soprattutto ai prezzi al consumo e alla produzione. È prevista una diminuzione del PIL nel 2023, ma è probabile che la domanda di lavoro continui ad essere elevata per effetto di un trascinamento positivo della crescita avvenuta da 2 anni a questa parte. Questo è il commento di Carlo Scorvino, responsabile dell'Osservatorio. Le cessazioni dei rapporti di lavoro sono in leggera diminuzione rispetto all'anno scorso, con un meno 0,6%. Le dimissioni volontarie superano di poco le 6.000 unità. Il rallentamento delle dimissioni è sintomo di un riposizionamento dell'offerta di lavoro verso opportunità di impiego considerate migliori. Potrebbe calare ancora nei prossimi mesi, sempre nella misura in cui il mercato del lavoro tenderà ad un maggiore equilibrio tra domanda di lavoro e offerta. Nel primo trimestre di quest'anno le assunzioni a tempo determinato sono aumentate di oltre il 4%. Il tempo, il cielo da nuvoloso a variabile sulla regione, queste le temperature registrate alle 11. Trieste 17,5 gradi con vento da est-nord-est, dunque bora a 32 km orari e con raffiche che hanno raggiunto i 75 orari. A Pordenone ci sono 19 gradi, Udine 16,5, Gorizia 16, Tolmezzo 13, Piancavallo, Forni di Sopra e Tarvisio 9,5, Sappada 8,5, Monte Zoncolan 3, Monte Lussari 1 grado, Lignano 17, grado 16. Le previsioni dell'ARPA: dal pomeriggio avremo un ulteriore miglioramento con cielo variabile, delle schiarite sulle Giulie saranno però possibili residue precipitazioni con cielo coperto. Giovedì e venerdì bel tempo. Le associazioni FIAIB, Italia Nostra, Lega Ambiente e WWF, che avevano a suo tempo espresso la loro contrarietà alla tappa del Giro d'Italia sul Monte Lussari, viste le caratteristiche ambientali, paesaggistiche, storiche e religiose del sito, prendono atto che la tappa si farà, salvo cattivo tempo, e avanzano alcune proposte per mitigare l'impatto di un evento di massa in un ambiente fragile. La prima è che la cronoscalata sia plastic free, senza gadget e senza pubblicità. La seconda, che venga calcolata l'impronta di carbonio dell'evento e compensata. Segnaliamo, ad esempio, scrivono le associazioni in una lettera indirizzata ai vertici della regione, che un fondo può essere destinato a una sperimentazione di rimboschimento sul Carso devastato dagli incendi. Il Dipartimento delle Dipendenze della Salute Mentale di ASFO ha promosso un'attività di informazione e sostegno ai genitori di adolescenti che consumano stupefacenti e alcol. Previsti 5 incontri nei mesi di maggio e giugno. Il primo questo pomeriggio alle 17 nella sede del Servizio delle Dipendenze dell'Azienda Sanitaria a Pordenone. Abbiamo chiesto alla psicologa Silvia Mascia dell'area Dipendenze qual è l'obiettivo del programma che si intitola Ascoltare per crescere insieme. L'obiettivo principale è favorire l'espressione e la condivisione del disagio vissuto dai genitori nella gestione delle relazioni proprio all'interno del sistema famiglia. Il tema che di solito emerge è il tema proprio del dolore che i genitori sperimentano in famiglia. Il tema proprio della solitudine del genitore è molto presente. I genitori a volte si ritrovano in difficoltà a far fronte, io dico, all'uso che i ragazzi fanno delle sostanze che possono essere cannabinoidi come l'alcol. È un'esperienza dove in realtà i genitori possono, grazie al confronto con altri genitori, sentirsi chiaramente non soli e poter esprimere le emozioni che sperimentano. Le emozioni sono varie, dalla paura, dalla rabbia, poi dai sentimenti di impotenza, dal disagio probabilmente di far fronte a un ruolo genitoriale che a volte non sempre sanno come poterlo affrontare. I genitori spesso fanno difficoltà anche a riconoscere i primi sintomi di un cosiddetto policonsumo. A che cosa bisogna prestare attenzione, ma soprattutto in chiave di prevenzione? Direi principalmente saper ascoltare i figli, cioè saper ascoltare e riconoscere quello che in realtà i figli comunicano non solo attraverso il linguaggio verbale ma anche attraverso i comportamenti non verbali. Quanto è loro importante che i genitori possano comprendere un po' il significato anche dei loro comportamenti, a volte aggressivi, a volte di chiusura. Allora la capacità dell'ascolto penso che sia la condizione basilare. A un anno circa dalla caduta di Mariupol, il festival Vicino Lontano racconta le giornate drammatiche dell'assedio della città ucraina con una mostra fotografica che è stata allestita nello spazio Make di Udine e resterà aperta fino all'11 maggio. L'evento inaugurale del festival però sarà un incontro sulla metamorfosi del potere alle 19 nella chiesa di San Francesco. Il culmine del festival, che porta a Udine oltre 200 ospiti, sarà la consegna del premio Tiziano Terzani, che quest'anno va a Zero Calcare. Sentiamo l'intervista ad Angela Terzani Staude, moglie di Tiziano Terzani e presidente della giuria. Un viaggiatore che si trova davanti a un universo ignoto e lo guarda con uno stupore così profondo da doverlo subito trasmettere a chi è rimasto a casa. Sono le parole di Angela Terzani-Staude, moglie del giornalista e scrittore Tiziano Terzani, a cui è dedicato il premio che sarà conferito sabato sera al libro No Sleep Till Shengal di Zero Calcare, il fumettista italiano per il quale Terzani è stato uno dei pilastri della sua formazione civica. Angela Terzani-Staude, presidente di giuria. Considerando che a Tiziano stavano molto a cuore i giovani proprio e che Zero Calcare, Michele Rech, che non si pronunci così, lo abbia percepito questo desiderio della di farsi capire e che lo abbia anche in qualche modo, in un certo senso, accettato e condiviso, sarebbe stato per Tiziano e è per noi di grande gioia. Angela Terzani-Staude ha raccontato la sua storia d'amore nel libro L'età dell'entusiasmo, che sarà presentato domenica. Lui credeva molto nell'importanza di fare le cose insieme, di non riuscire da solo, completamente da solo, ad attuare i suoi ideali, per cui lì ci siamo trovati. Il potere è il tema della 19ª edizione, la parola chiave per interpretare il mondo che cambia. 80 appuntamenti tra scienza, arte, informazione e cultura con oltre 200 ospiti. La curatrice Paola Colombo. Abbiamo Vera Politkovskaja, figlia di Anna Politkovskaja, cui insomma la giuria del premio Terzani assegnò nel 2007 il premio Terzani alla memoria proprio l'indomani del suo assassinio. Abbiamo Miguel Benassayaga, abbiamo lo storico David Reynolds, abbiamo giornalisti Francesca Mannocchi, Alberto Negri, Marino Sinibaldi, scienziati Guido Barbuiani, Giovanni Boniolo, Gilberto Corbellini, filosofi Pieraldo Rovatti, insomma 200 personalità. Trieste, Eva Ciuc, TGR, Friuli Venezia Giulia. Si parla del valore dell'innovazione nei comuni e sul territorio. Questo pomeriggio a Udine, a partire dalle 15.30, alla Torre di Santa Maria, un evento promosso dall'ANCI FVG. Saranno anche consegnati i riconoscimenti del premio Nuova PAFVG, istituito per valorizzare le amministrazioni comunali che si sono distinte per progetti di miglioramento e innovazione. Tra i partecipanti, oltre al presidente regionale dell'ANCI, Dorino Favot, anche l'assessore regionale alle autonomie locali e funzione pubblica, Pierpaolo Roberti, e il vicepresidente vicario di Confindustria Udine, Piero Petrucco. A Pordenone prende il via Tilt, la nuova rassegna organizzata dall'associazione Terra E, Officina della Sostenibilità. Fino al 31 maggio una serie di appuntamenti con esperti di climatologia, scrittori, operatori economici del territorio e divulgatori scientifici cercheranno di fotografare lo stato dell'arte dei cambiamenti del clima a livello globale. Primo appuntamento stasera alle 20.45 nella Sala Degan con Coldiretti e l'ARPA Friuli Venezia Giulia con Sergio Nordio. Il tema sarà il clima impazzito. Presentata la seconda edizione del Festival del Cambiamento, promosso dalla Camera di Commercio Venezia Giulia, si articolerà in due giornate, mercoledì 10 maggio a Gorizia e giovedì 11 maggio a Trieste. Tra i temi in programma il modo in cui si sta modificando il mondo del lavoro e del business in chiave delle nuove tecnologie digitali e dell'intelligenza artificiale. Si parlerà poi di crisi energetica e di materie prime e delle trasformazioni che stanno interessando i modelli di produzione e consumo e la sostenibilità. Lo sport, pallanuoto, Trieste in gara 1 dei play-off del quinto posto, ospita il Posillipo alle 20.30 la Bianchi. I triestini rientrano tra le squadre che nella regular season si sono classificate tra il quinto e l'ottavo posto e la conquista in fase play-off del quinto posto garantirebbe il pass per la prossima edizione dell'Eurocup. La formula prevede due semifinali e la finale. Siamo pronti, spiega l'allenatore Daniele Bettini. Il Posillipo è in crescita, hanno trovato un ottimo equilibrio tattico, ma per noi l'Eurocup è importantissima, ci teniamo e faremo di tutto per raggiungerla. La Pallamano Trieste, dopo una stagione difficile, ha raggiunto i play-off per accedere alla massima serie. Si disputano da oggi a domenica sul campo neutro di Chieti. La squadra di Oveglia inizia le Final 8 alle 20 contro i campani di Lanzara, che hanno chiuso primi in classifica nel girone C. Conosciamo il valore delle avversarie che affronteremo, ha detto il tecnico Radojković. Arriviamo a queste sfide per giocarcela con la consapevolezza di aver fatto tutto al massimo. La squadra triestina, proprio ai Final Eight, si presenterà con le maglie del nuovo sponsor Step Impianti. Finisce qui questa edizione del giornale radio regionale, che è stata redatta e condotta in studio da Alessandra Zigaina e Nada Ciocchi. In regia, per la parte tecnica, Paolo Cassano. Ha collaborato in redazione Laura Sarasini. A tutti voi grazie per averci seguito e un buon proseguimento d'ascolto. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.